passione non è solo un gioco. Di Giovanni Capuano. And now it is my obligation to declare the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 closed. La voce del presidente del CIO, Thomas Bach, nella notte di Pyeongchang, Corea del Sud. 25 febbraio 2018, il giorno in cui si è spento per l'ultima volta il braciere olimpico, dando appuntamento a tutto il mondo per il 2022 a Pechino, 24esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, con in mezzo la 32esima di quelli estivi che la pandemia Covid-19 ha cancellato quest'estate e spostato avanti di 366 giorni al 23 luglio 2021. Il viaggio nei costi dei giochi a cinque cerchi, perché spesso siano stati un flop dal punto di vista economico, perché abbiano costretto il CIO a varare norme stringenti per evitare la fuga dei paesi candidati, comincia da qui. Dallo stadio olimpico di Pyeongchang, con la sua forma a pentagono, il tripode alto 25 metri, costato poco più di 100 milioni di euro e demolito nemmeno 5 mesi dopo la fine dei giochi. Apparentemente uno spreco insostenibile, seppure inserito in un contesto, quello delle Olimpiadi invernali del 2018, in cui il comitato organizzatore ha dichiarato nell'ottobre successivo un utile complessivo di 51 milioni di euro. È proprio così? Quali sono i costi di un'Olimpiade? Una scheda ci aiuta a riannodare e mettere in fila i numeri. €4,8 miliardi di euro per i giochi estivi, 2,9 per quelli invernali. È la media dei costi organizzativi delle Olimpiadi, prendendo come inizio della serie Roma 1960 e allungandosi fino a Pyeongchang 2018. Il calcolo è stato fatto da tre ricercatori della Saidi Business School dell'Università di Oxford, anche se ricostruire l'andamento di budget e costi reali in epoche così lunghe e differenti non è operazione semplice. Infrastrutture, sicurezza, impianti sportivi, trasporti e tecnologia. La progressione degli investimenti è stata verticale, con due punte destinate a rimanere nella storia. Londra 2012, l'edizione estiva più costosa con i suoi 13,8 miliardi di euro, e Sochi 2014, che impegnò il comitato organizzatore e il governo russo per oltre 20 miliardi. Al contrario, invece, Tokyo e Innsbruck, entrambe nel 1964, hanno fatto registrare gli investimenti minori, rispettivamente 259 e 20 milioni di euro. Giovanni Bruno, già direttore di Sky Sport, uno dei più profondi conoscitori della materia olimpica. Giovanni, quando il CIO si è posto il problema del gigantismo e degli investimenti fuori controllo per le Olimpiadi? È dal 2010, da quando è stata assegnata a Vancouver e si è trovata di fronte l'impatto di Londra, che aveva dei costi esagerati, che poi ti spiegherò bene anche su questa questione di Londra. E a quel punto ha voluto introdurre un qualcosa che calmierasse l'effettivo grande costo, che in una certa maniera il CIO partecipasse a questi costi, e fondamentalmente la terza situazione è che diminuivano sensibilmente le città che chiedevano di partecipare alle Olimpiadi. Perché l'edizione di Londra è uno spartiacque con un prima e un dopo? Londra 2012 è stato lo spartiacque per una semplice ragione, perché da un costo ipotetico che era intorno ai 3 miliardi, anzi per la precisione 3 miliardi e 6, si è arrivati a un reale costo effettivo di circa 18 miliardi. Quindi una cosa abbastanza impressionante sotto vari punti di vista. Però c'è un dopo. Allora, questa è quella stata la mossa, diciamo, non è possibile che una città preveda di spendere 3 miliardi e rotti e poi ne va a spendere non il doppio, il triplo, il quadruplo, che è qualcosa di allucinante. Ma perché Londra ha speso così tanto? Lo si è scoperto un po' dopo, perché ha risistemato tante cose con i soldi del governo e con i soldi della città. Ha sistemato realmente svariati quartieri malfamati, facendoli diventare dei quartieri, tra virgolette, super. È una battaglia persa, nel senso che dietro ogni candidatura o assegnazione relativo budget c'è poi la certezza quasi assoluta di costi non controllabili, ad esempio per adeguare gli standard di sicurezza? Nel passato c'era una situazione, ma era a monte questo discorso, persino nelle candidature che c'era un qualcosa di sfuggire alle regole della logica, bastavano i voti diciamo comprati per assegnarla alle città affinché si guadagnasse. Faccio un assurdo, diciamo, l'unica vera situazione super negativa che si è creata nella storia olimpica è quella di Montreal 1976. Là ci fu un gigantismo talmente esagerato che ci sono voluti 30 anni per ripianare quella situazione assolutamente negativa. Furono create persino un'isola all'interno del bacino dell'acqua, quindi qualcosa di allucinante. Sulle regole, su quello bisogna avere una situazione ulteriormente molto forte di controllo, e in questo il CIO con l'agenda 2020 e mettendo del suo denaro ha ovviamente una struttura di controllo sull'andamento finanziario del prestito, dei soldi dati alla città che ospita. Le regole così come disegnate dal CIO, si può dire che hanno messo in sicurezza il modello delle Olimpiadi moderne? Sì, assolutamente sì. Se tu consideri, poi ci sono delle cose che sfuggono totalmente a qualunque tipo di controllo, e questo avviene in determinati paesi, perché se io chiudo gli occhi e penso a Pechino e penso a Sochi, l'Olimpiade del 2008 e l'Olimpiade del 2014 veramente sono delle situazioni, diciamo, incontrollabili, e nessuno sa realmente quanto hanno speso, perché Pechino 2008 si parla persino di 35 miliardi di spese e 45 per quanto riguarda Sochi. Adesso non può avvenire una cosa del genere. E il futuro secondo me è molto positivo, col minore città, e nello stesso tempo l'analisi che deve fare il CIO nella scelta di quella città è sull'impiantistica già presente e sulle migliorie che si possono fare su determinate parti di impianti. Quello che succede su Milano: Milano spenderà veramente molto poco per migliorare tanto, già su una situazione migliorata grazie all'Expo. Dear fellow athletes, let me start with the good news first. We all will be able to celebrate the Olympic Games Tokyo 2020. Even if it's only in 21. Questa è la voce del presidente del CIO, Thomas Bach, il 25 marzo 2020, poche ore dopo aver ufficializzato lo spostamento dei giochi di Tokyo all'estate del 2021. Non era mai capitato prima nella storia dei cinque cerchi ed è stato effetto della pandemia che ha reso impossibile immaginare l'organizzazione di un grande evento che sposta decine di migliaia di atleti e partecipanti e coinvolge milioni di appassionati. Per il Giappone è stato uno shock. Cesare Polenghi, giornalista italiano, vive in Giappone da 30 anni. Quanto sono costate fin qui le Olimpiadi di Tokyo 2020, diventate Tokyo 2021? Dunque, allora, ci sono vari calcoli. Ce n'è uno che parte addirittura dal 2001, che è l'anno in cui il Giappone ha cominciato, appunto, Tokyo ha cominciato a puntare a queste Olimpiadi, e si parla in quel caso di addirittura 275 miliardi di euro. La spesa ufficiale è di 11,6 miliardi di euro, di cui almeno 7 saranno pagati dai contribuenti. Però ecco, questa è una spesa ufficiale, poi insomma diciamo che tutti pensano che effettivamente siano costate, insomma, le Olimpiadi in sé siano costate di più, probabilmente il doppio. Quali previsioni di ricaduta economica erano state fatte avvicinandoci all'inizio dei giochi di Tokyo 2020? Il Nikkei, che è un po' il Sole 24 Ore giapponese, aveva fatto una previsione di benefici economici, la previsione va fino al 2030, di 250 miliardi di euro. E oltre a questo c'erano anche 2 milioni di nuovi posti di lavoro, quindi insomma tutto sommato erano delle previsioni molto positive. Ma soprattutto io penso che l'idea fosse non solo di questo guadagno netto, ma riavviare, di far ripartire un'economia che di fatto è ormai ferma da almeno un paio di decenni. E quindi appunto le speranze non erano solo limitate agli introiti, al cash, diciamo, ma anche proprio a una ripartenza a livello appunto economico, sociale, di cui il Giappone ha assolutamente bisogno. Quali stime erano state scritte sull'eredità che avrebbero dovuto lasciare i giochi sul turismo giapponese e che ci si augura potranno lasciare nel 2021? Il Giappone già ha visto un primo boom di turismo internazionale nel 2002 grazie ai mondiali. Ora c'era l'idea di farne una versione migliore, molto più avanzata, e tantissime entità nel campo del turismo hanno investito, e parlo sia da un certo punto di vista chiaramente di grandi catene di alberghi e di ristorazione, ma anche nel privato. Molte persone hanno deciso di spostarsi, appunto, di creare dei bed and breakfast, di creare delle specie di agriturismo, e ora purtroppo appunto è tutto fermo, e per tante persone, appunto, anche a livello di medio piccole compagnie è abbastanza una situazione disastrosa, ovviamente. Qual è la stima del costo del rinvio di un anno dei giochi causa pandemia? La prima cifra che era uscita era di 2 miliardi e mezzo di euro. Poi però i media si sono rivolti a Katsuhiro Miyamoto, che è un luminario giapponese di economia teorica, che ha rifatto il calcolo e praticamente la cifra che è uscita sono 5 miliardi e mezzo di euro, di cui due terzi fondamentalmente saranno devoluti semplicemente al costo di manutenzione per gli stadi, palazzetti, alloggi. Poi c'è un discorso legato alla vendita di questi alloggi, perché il villaggio olimpico fondamentalmente è stato costruito e c'era l'idea, appunto, ci sono queste 5.600 unità, di cui tra l'altro 940 sono già state vendute, e ovviamente anche qui tutto è bloccato. Poi ci saranno delle perdite legate ovviamente agli sponsor, questo chiaramente appunto è veramente un problema a livello finanziario. Chi pagherà questi costi di rinvio? È chiaro che una grande parte di questi costi ricadrà sui contribuenti. Noi abbiamo già avuto un aumento delle tasse per i consumatori dall'8% al 10%, però bisogna anche vedere alla fine chi si prenderà carico in generale di queste spese, perché il Giappone si aspetta che il Comitato Olimpico o insomma gli altri sponsor, gli altri, insomma, la comunità internazionale contribuisca alle spese per questo rinvio. L'ipotesi di cancellazione viene presa in considerazione ed eventualmente che tipo di impatto economico potrebbe avere? Allora, la cancellazione totale sarebbe veramente un disastro per il Giappone a livello di immagine, a livello proprio di morale per la nazione e soprattutto a livello anche economico. Dunque, si parla di 38 miliardi di euro di perdite. Sul totale, appunto, ritornando a quel calcolo di prima, cioè le spese che sono state fatte dal 2001, potrebbe essere addirittura 172 miliardi di perdite, considerando appunto tutto quello che è stato buttato nell'idea di, appunto, di portare le Olimpiadi a Tokyo. È un rischio, chiaramente, che questa cosa succeda, e fondamentalmente, sotto tutti i punti di vista, è una cosa che è abbastanza terrorizzante per noi in Giappone. I conti dello sport. Cronaca, una buona dose di attualità, un pizzico di arte, cultura e spettacolo, sport quanto basta. Ad innaffiare il tutto tanta curiosità per quello che succede in Italia e nel mondo in questa estate molto particolare. Sono Andrea Ferro, questa è la mia ricetta. Con effetto notte estate vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.30 qui su Radio 24. Conti dello sport. Abbiamo messo in fila i numeri e i costi delle Olimpiadi e raccontato la storia di Tokyo 2020 e del suo rinvio di un anno. Ma c'è un altro passo da fare per comprendere quale sia l'impatto economico del più grande evento sportivo esistente sul pianeta. È un parametro spesso difficile da misurare, perché mentre i budget presentati nel dossier di candidatura sono chiari, scritti nero su bianco, molto spesso quanto accade negli anni che separano l'assegnazione dall'evento si perdono nella nebbia. E anche senza immaginare comportamenti non trasparenti, non sempre è operazione semplice conteggiare correttamente quali spese inserire alla voce Olimpiadi, quali sono più in generale investimenti infrastrutturali del paese ospitante e quali invece sprechi che appesantiscono il conto. Sempre lo studio dell'Università di Oxford ha concluso che nelle 19 edizioni estive tra il 1976 e il 2016 ben 9 volte le previsioni di budget sono state superate di oltre il 100% e 15 volte del 50%. L'overrun medio delle ultime 8 Olimpiadi estive è stato del 176%, con l'esperienza finanziariamente tragica di Montreal 76, in cui lo sforamento registrato ha toccato addirittura il 720%. Un po' meglio nelle Olimpiadi invernali, in cui i budget sono stati mediamente superati del 142% e dove pesa l'esperienza di Sochi 2016 con i suoi 20 miliardi di costi per creare dal nulla le infrastrutture. Antonio Cunazza, architetto, esperto di impiantistica e costi delle grandi infrastrutture sportive, fondatore del sito www.archistadia.it. Cosa resta una città, un paese, di un'Olimpiade alla fine, quando si spengono le luci della ribalta? Allora, restano due cose, direi. Una è chiaramente l'immagine storica, un senso di celebrazione e di autocelebrazione per la città stessa. E dall'altra parte resta invece quello che l'Olimpiade è riuscita a creare all'interno della città proprio dal punto di vista sportivo. Quindi quello che poi le città, soprattutto direi negli ultimi 20-30 anni, quindi definiamola un'epoca più contemporanea, devono riuscire a pensare quando organizzano l'Olimpiade è la ricaduta poi sullo sport locale o nazionale che l'evento riesce a lasciar dietro, sia a livello di strutture ovviamente, ma anche a livello di crescita proprio dell'approccio del paese verso lo sport. Noi ci siamo abituati a ricordare tanti flop economici di Olimpiadi del passato e pochi esempi virtuosi. Ad esempio Barcellona nel 1992, una grande edizione che rilanciò la città catalana, oppure Londra nel 2012, possono essere considerate le best practice a 5 cerchi? Allora, sicuramente Londra 2012 è un esempio ottimo perché è molto recente, quindi è qualcosa a cui fondamentalmente chi per esempio organizzasse un'Olimpiade adesso può fare riferimento per una questione di costi, di modernità delle strutture, di questione mediatica anche, perché non dimentichiamoci che lo sport contemporaneo si porta dietro una serie di necessità mediatiche che poi diventano impianti veri e propri da inserire negli stadi, negli edifici. Quindi dimensionare anche un edificio da questo punto di vista è una cosa molto diversa da quella che poteva essere 30 o 40 anni fa. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero Montreal 76, considerata la peggiore Olimpiade a livello economico-finanziario se si considerano costi e benefici. Montreal 76 è un po' la versione olimpica di quello che abbiamo vissuto noi probabilmente nel 90 con i mondiali di calcio. Ci si infilò in un meccanismo, in un buco nero praticamente, di favori, di appalti e di subappalti che tra l'altro fecero schizzare i costi di proporzioni incredibili rispetto alle previsioni, tanto che per esempio già solo lo stadio olimpico la città di Montreal riuscì a ripagarlo solo una decina di anni fa, a 30 anni dall'Olimpiade. Quanto costa nella media un'Olimpiade? E stiamo parlando dei giochi estivi che hanno dimensioni e costi nettamente superiori rispetto alle edizioni invernali. Si calcola più o meno una media che è stata anche fatta dallo stesso CIO, che si può organizzare un'Olimpiade con una media di 10 miliardi più o meno di costo, che poi è per esempio la cifra che venne spesa per Barcellona 92. Chiaramente più si va avanti, più, come dicevo prima, le necessità prevaricano un po' l'aspetto sportivo e c'è molta più organizzazione da dedicare a tutto il contorno. Per esempio, all'Olimpiade invernale di Pyeongchang sono transitati circa 1 milione di spettatori all'interno di una cittadina che in realtà ospita 50.000 abitanti più o meno, e quindi è abituata a una molle di persone veramente molto inferiore. Quali sono le voci di un budget olimpico e quali pesano di più? Sicuramente la parte impiantistica strutturale è quella predominante in questo senso, quindi c'è la necessità di trovare tutti gli impianti, i luoghi dove gareggiare, insomma, dove organizzare le gare. Da questo punto di vista, per esempio, parlavamo di Londra, e Londra è stata avvantaggiata decisamente da questo punto di vista perché è una città che ha un impianto sportivo, una tradizione sportiva molto consolidata. Il villaggio olimpico, che è stata per esempio la nota dolente per Torino 2006, però torniamo al discorso del numero di persone che lo devono utilizzare, quindi delegazioni sempre più ampie, atleti sempre più numerosi, discipline che aumentano da un'edizione all'altra, quindi il villaggio olimpico diventa poi oggetto di riutilizzo per la città, il villaggio media e poi ci sono tutti i costi che bisognerebbe mettere in considerazione per implementare e migliorare i trasporti. Fondamentalmente la rete di trasporti diventa poi il dettaglio che fa funzionare al meglio un'Olimpiade, quindi la rapidità negli spostamenti sia per il pubblico sia per gli atleti, ed è tra l'altro una rete di trasporti che la città si ritroverà appena finita l'Olimpiade. Uno degli aspetti, per esempio, che hanno un po' azzoppato alcune edizioni, penso a Lake Placid nel 1980. È vero che i budget presentati nel momento della candidatura vengono sempre superati e quali sono le ragioni di questi sforamenti? Nello studio che il CIO faceva della spesa media prevista per un'Olimpiade di cui parlavamo prima, c'è anche una tendenza allo sforare il budget che di solito si aggira intorno al 50% in più rispetto alle previsioni. Un superamento, un gap che viene determinato da quelli che sono costi che non puoi prevedere inizialmente, soprattutto purtroppo sulla costruzione degli impianti. Fondamentalmente tende sempre a superare i costi attesi perché ci sono poi una serie di adattamenti e di modifiche in corso d'opera o al progetto stesso che prolungano leggermente i tempi e alzano i costi. Provando a fare una sintesi al percorso fatto fin qui, la domanda viene spontanea. È sempre vero che organizzare i giochi olimpici, in generale un grande evento sportivo, fa perdere denaro agli organizzatori e al paese che li ospita? Se teniamo presente il discorso dei costi che superano le attese, probabilmente la risposta sarebbe sì. In realtà, se la città è capace di creare una ricaduta per se stessa sul medio periodo, è chiaro che il ritorno poi a medio termine c'è. In questo senso, l'esempio di Barcellona è perfetto, perché comunque Barcellona si trasforma, come dicevamo, in una città internazionale e grazie a quell'Olimpiade prende il via quella città che conosciamo oggi. Quindi teoricamente sul momento perdi, ma sul lungo periodo guadagni, cosa che probabilmente non si può dire per esempio di Torino, che ha perso e non ha più riguadagnato, anche se grazie alle Olimpiadi è diventata una città turisticamente molto più appetibile. Il problema è sempre la capacità di reinvestire su quello che hai costruito. Dunque, organizzare un'Olimpiade è un affare o no? Io sarei dell'idea che lo è. Chiaramente in parte questa è un'opinione personale, ma da appassionato di sport, da studioso insomma dell'architettura sportiva, io credo che l'Olimpiade sia per una città una chance molto specifica. E per riuscire a trasformarsi. È molto difficile che una città riesca a trasformarsi allo stesso modo grazie a un'Olimpiade o da sola, solo con una serie di pianificazioni su medio termine. Quindi l'Olimpiade è quella ragione improvvisa che ti permette di trasformarti o di rinnovarti. Diversamente ci metteresti molti più anni. Penso, per esempio, a tutto quello che è riuscito a fare Londra nella parte est della città, Stratford e quant'altro. Quindi sì, dovrebbe essere un affare, ma va affrontato in questo senso, perché ormai le città sono di difficile ampliamento, siamo in una fase un po' di stallo da questo punto di vista, almeno a livello urbanistico, e quindi riuscire a intervenire con un'Olimpiade in questo momento storico per rinnovarsi deve essere una cosa pianificata molto bene. Un tema quanto mai d'attualità, allungando lo sguardo verso il 2026, la grande scommessa italiana di Milano Cortina. La stima è che i giochi conquistati battendo Stoccolma al ballottaggio costeranno 1,9 miliardi di euro, genereranno un impatto positivo sul PIL di 2,3 e lasceranno in eredità impianti e strutture interamente riutilizzate al termine. I conti dello sport testimonierà se si tratta di realtà o solo di un libro dei sogni.